Purtroppo dati esatti non esistono, perché è un fenomeno molto sommerso che si fa fatica ad indagare. Spesso gli abusi avvengono all'interno dei nuclei familiari o in contesti in cui non è facile scoprirli, però si stima che un anziano su 6 sia vittima di abusi, quindi una percentuale molto elevata. Le tipologie di abusi sono molte, purtroppo, quindi andiamo dall'abuso psicologico, quindi ciò che è natura verbale, l'abuso finanziario, l'abuso fisico, quindi le violenze vere e proprie, i maltrattamenti, gli abusi sessuali e anche tutto ciò che riguarda la mancanza di cure adeguate, di assistenza adeguata per le persone non autosufficienti. Per contrastare anche questo fenomeno, una delle azioni possibili è, la seguite voi, che è un progetto, si intitola Two Moons. Che cos'è? Two Moons è un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus che la nostra cooperativa realizza in partenariato con un'altra organizzazione italiana, che è l'Associazione Teatri d'Imbarco di Firenze, e dei partner della Romania, della Finlandia e dell'Irlanda, e insieme abbiamo cercato di sviluppare dei modi nuovi per aumentare la consapevolezza delle persone anziane, ma in generale della cittadinanza, rispetto ai diritti umani delle persone anziane e alle loro violazioni, e abbiamo scelto di farlo utilizzando il teatro. Abbiamo appunto due partner, Teatri d'Imbarco e Gaiety School of Acting dell'Irlanda, che sono compagnie teatrali, usando il teatro perché riteniamo che sia un veicolo che aiuta molto il fatto di riuscire a mettersi nei panni di qualcun altro, e in particolare il progetto ha raccolto delle storie vere di anziani provenienti da questi diversi paesi europei che sono stati vittime di abusi o di discriminazioni, e ha trasformato, cercando però di restare il più possibile fedele all'originale, queste storie in monologhi teatrali. Sono stati realizzati 5 monologhi che sono stati adattati appunto dalle parole degli anziani, da Nicola Zavagli, che è il drammaturgo appunto di Teatri d'Imbarco, e con la collaborazione di Salvatore Miglianta, che invece è un avvocato esperto in diritti umani, e quindi hanno adattato questi testi per la versione italiana, e questi monologhi speriamo quanto prima possano essere messi in scena su dei palcoscenici teatrali, ma appunto li abbiamo anche adattati per essere veicolati attraverso la radio, perché riteniamo che sia un ottimo modo per raggiungere molte persone che magari non seguono direttamente queste tematiche. Allora colgo l'occasione per ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori della nostra emittente che appunto è possibile ascoltare questi monologhi di radioteatro documentario il sabato alle 8:30 sulle nostre frequenze. Lei diceva prima uno strumento, insomma, per stimolare l'immedesimazione, insomma, delle persone, ma anche per informare su come mettersi al riparo dagli abusi, giusto? Certo, infatti il nostro obiettivo è di fare in modo che chi ascolta questi monologhi possa anche capire, acquisire qualche strumento di intervento o di prevenzione, e per fare questo abbiamo, diciamo, utilizzato due strumenti. Da un lato è stato incorporato nel testo teatrale una figura che noi abbiamo chiamato del difensore, quindi un personaggio in questo caso fittizio, ma che mette in luce quali sono le violazioni dei diritti raccontate nelle storie, ma anche come poter intervenire. E poi il progetto mette anche a disposizione delle risorse che si possono scaricare dal sito, che è twomoons.eu, che sono delle guide che illustrano appunto come riconoscere le violazioni e come intervenire per riuscire a contrastarle.